proposito del principe di Foix, conviene aggiungere, poiché ce ne viene offerta l'occasione, che gli apparteneva a una cricca di 12 o 15 giovanotti e a un gruppo più ristretto di 4. La cricca dei 12 o 15 aveva una caratteristica rispetto alla quale il principe, credo, faceva eccezione, ed era che ciascuno dei suoi giovani membri presentava un duplice aspetto. Indebitati fino al collo, passavano per delle nullità agli occhi dei loro fornitori, malgrado tutta la piacevolezza con cui costoro li interpellavano. Signor Conte, signor Marchese, signor Duca, speravano di togliersi dagli impicci grazie al famoso ricco matrimonio, detto anche colpo grosso, e poiché le cospicue doti cui aspiravano non erano più di 4 o 5, parecchi, sotto sotto, manovravano per mettere le mani sulla stessa fidanzata. E il segreto era mantenuto con tanta cura che se uno di loro, arrivando al caffè, diceva «Carissimi, vi voglio troppo bene per non annunciarvi il mio fidanzamento con Mademoiselle d'Ambresac», risuonavano grandi esclamazioni, poiché più di uno, convinto d'aver concluso lo stesso affare a suo vantaggio, non aveva il sangue freddo necessario per soffocare, così d'acchitto, il grido della sua rabbia e del suo stupore. «Allora, non ti pare vero di sposarti, Bibi?» non poteva trattenersi dall'esclamare il principe di Châtellerault, lasciando cadere la forchetta per lo sbalordimento e la disperazione, sicuro come era stato che il fidanzamento di Mademoiselle d'Ambresac sarebbe stato presto reso pubblico, ma con lui, Châtellerault. Eppure, Dio solo sa quel che suo padre aveva abilmente insinuato agli Ambresac contro la madre di Bibi. «Allora, sei contento di sposarti?» non poteva impedirsi di chiedere una seconda volta a Bibi, il quale, meglio preparato, avendo avuto tutto il tempo di impostare il proprio atteggiamento da quando la cosa era quasi ufficiale, rispondeva sorridendo: «Contento, sì, ma non di sposarmi, che è una cosa di cui non avevo proprio nessuna voglia. Contento di sposare Daisy d'Ambresac? La trovo deliziosa!» Mentre gli veniva snocciolata questa risposta, il signor di Châtellerault si era ripreso, ma stava già pensando che avrebbe dovuto fare un rapido voltafaccia con Mademoiselle de la Camurgue o Miss Foster, che erano, rispettivamente, il gran partito numero 2 e il gran partito numero 3. Invitare alla pazienza i creditori in attesa del matrimonio Ambresac e, da ultimo, spiegare a tutti coloro cui aveva vantato a sua volta il fascino di Mademoiselle d'Ambresac che quello era un matrimonio buono per Bibi, ma che lui, se l'avesse sposata, si sarebbe guastato con l'intera famiglia. Madame de Soleon, questa la tesi che avrebbe sostenuto, era arrivata a minacciare di non riceverli più in casa sua. Ma se fornitori, padroni di ristoranti, eccetera, li consideravano gente da poco, in compenso, grazie alla loro duplice natura, non appena si trovavano in società, cessavano ad essere giudicati in base allo sfacelo del loro patrimonio e agli squallidi traffici cui si dedicavano nel tentativo di mettervi riparo. Ridiventavano il signor principe, il signor duca tal dei tali e venivano valutati solo in proporzione ai loro quarti. Un duca miliardario, o quasi, che sembrava sommare in sé ogni pregio, passava in second'ordine rispetto a loro, in quanto, capi di casata, discendevano da principi sovrani di un piccolo paese dove anticamente avevano diritto di battere moneta, eccetera. Spesso, in quel caffè, c'era chi abbassava gli occhi quando entrava qualcun altro, per non costringere il nuovo venuto a salutarlo. Era perché, nella sua fantasiosa caccia alla ricchezza, aveva invitato a pranzo un banchiere. Ogni volta che, In siffatte condizioni, un personaggio del gran mondo stabilisce rapporti con un banchiere, questi gli fa perdere un centinaio di migliaia di franchi, il che non impedisce all'uomo di mondo di riprovarci con un altro. Non si smette mai di accendere ceri e di consultare medici. Ma il principe di Foix, che era ricco di famiglia, non apparteneva solo a quella cricca elegante di una quindicina di giovani, ma anche a un gruppo più chiuso e inseparabile di quattro di cui faceva parte Saint-Lieu. Non li si invitava mai l'uno senza l'altro. Li si chiamava i quattro gigolò, li si vedeva sempre insieme al passeggio, nei castelli, dove ci si premurava di alloggiarli in camere comunicanti, di modo che, anche per il fatto che erano tutti molto belli, correva qualche voce a proposito della loro intimità. Io potei smentirle nel modo più categorico per quanto concerneva Saint-Lieu. Ma la cosa curiosa è che in seguito, mentre tali voci si rivelarono vere per tutti e quattro, emerse che ciascuno di loro, per contro, le aveva totalmente ignorate rispetto agli altri tre. E non di meno, ciascuno avrà pur cercato di ragguagliarsi sugli altri per soddisfare un desiderio o magari un rancore, per impedire un matrimonio, per avere in suo potere l'amico smascherato. Un quinto, nei gruppi di quattro si è sempre in più di quattro, che lo era più di tutti, si era aggregato ai quattro platonici, ma lo trattennero scrupoli religiosi, ben oltre l'epoca in cui il gruppo fu disciolto e lui stesso, sposato e padre di famiglia, si diede ad implorare a Lourdes che il prossimo figlio fosse un maschio o una femmina, buttandosi nel frattempo sui militari. Malgrado il temperamento del principe, il fatto che il discorso fosse stato tenuto in sua presenza, ma non rivolto direttamente a lui, rese la sua collera meno violenta di quanto altrimenti sarebbe potuta risultare. Quella serata, inoltre, aveva qualcosa d'eccezionale. E, per finire, quanto a entrare in relazione col principe, l'avvocato non aveva maggiori possibilità del vetturino dal quale il nobile signore era stato condotto sin lì. Egli si credette dunque in diritto di rispondere, con arroganza tuttavia e senza guardarlo in faccia, a quell'interlocutore che, grazie alla nebbia, era come un compagno di viaggio incontrato in qualche plaga posta ai confini del mondo, battuta dai venti e sepolta dalle brume. Il rischio non è di perdersi, ma di non ritrovarsi più. La giustezza di questo pensiero colpì il padrone, perché l'aveva già sentita esprimere diverse volte quella stessa sera. Aveva in effetti l'abitudine di confrontare sempre ciò che sentiva o leggeva con un certo testo già noto, e la sua ammirazione si destava ogni volta che non riscontrava differenze. Questa disposizione mentale non è trascurabile perché, applicata alle discussioni politiche e alla lettura dei giornali, incide sull'opinione pubblica e, indirettamente, sui maggiori avvenimenti. Il fatto che molti proprietari di caffè tedeschi ammirassero i loro clienti o il loro giornale soltanto quando affermavano che la Francia, l'Inghilterra e la Russia provocavano la Germania, ha creato, al momento di Agadir, i presupposti di una guerra che, peraltro, non è scoppiata. Gli storici non hanno avuto torto, rinunciando a spiegare le azioni dei popoli con la volontà dei re, ma a quest'ultima devono sostituire la psicologia dell'individuo mediocre. In politica era da un po' di tempo che il padrone del caffè dove ero appena approdato applicava la sua mentalità da professore di recitazione soltanto a un certo numero di brani concernenti l'affare dei Dreyfus. Se nelle parole di un cliente o nelle colonne di un giornale non ritrovava la nota terminologia, dichiarava barboso l'articolo e poco sincero il cliente. Il principe di Foix, invece, lo commosse al punto che gli lasciò a malapena il tempo di finire la frase. «Ben detto, signor principe, ben detto!» Il che significava, in fondo, recitato senza errori. «È così, è proprio così!» esclamò, espandendosi, come si esprimerebbero le mille e una notte, ai limiti estremi della soddisfazione. Ma il principe era già sparito nella saletta. Poi, siccome la vita riprende anche dopo gli avvenimenti più singolari, gli scampati dal mare della nebbia ordinarono chi la sua consumazione, chi la sua cena. E fra questi, alcuni giovani del giochi che, data l'anormalità di quella serata, non esitarono a installarsi a due tavoli della sala grande, venendo così a trovarsi vicinissimi a me. Insomma, il cataclisma aveva instaurato, persino tra la saletta e la sala grande, fra tutte quelle persone stimolate dal comfort del ristorante dopo il loro lungo errare nell'oceano di bruma, una familiarità da cui io solo rimanevo escluso e che assomigliava probabilmente a quella regnante nell'arca di Noè. Tutto a un tratto vidi il padrone flettersi in una serie di salamelecchi, i metra a correre al gran completo, attirando gli sguardi di tutti i clienti. «Presto, chiamatemi Cyprien, un tavolo per il signor Marchese di Saint-Lieu!» vociava il padrone, per il quale Robert non era soltanto un gran signore provvisto di un autentico prestigio, persino agli occhi del principe di Foix, ma un cliente che si concedeva un gran tenore di vita e spendeva allegramente nel suo ristorante. I clienti della sala grande guardavano incuriositi, quelli della saletta cercavano a gara di farsi notare dall'amico che stava finendo di asciugarsi le scarpe. Ma mentre stava penetrando nella saletta, Robert mi scorse nella sala grande. «Mio Dio, ma che cosa fai lì che con quella porta aperta?» gridò, non senza lanciare un'occhiata furibonda al padrone che corse a chiuderla dando la colpa ai camerieri. «Glielo dico sempre di tenerla chiusa!» Per raggiungere Robert ero stato costretto a disturbare i clienti del mio tavolo e di altri che si frapponevano. «Perché ti sei alzato? Preferisci pranzare qui che nella saletta? Ma gelerai, povero caro! Mi farete il piacere di bloccare quella porta!» soggiunse all'indirizzo del padrone. «All'istante, signor Marchese, da questo momento si entrerà solo dalla saletta, è semplicissimo!» E per testimoniare meglio il proprio zelo, delegò a tale mansione un maître e parecchi camerieri, proferendo ad alta voce terribili minacce se non fosse stata eseguita alla perfezione. Mi elargiva intanto sperticati segni di rispetto, perché dimenticassi che non erano iniziati al momento del mio arrivo, ma solo dopo quello di Saint-Lieu, e perché non li credessi dovuti all'amicizia dimostratami dal suo ricco e aristocratico cliente, mi scoccava piccoli, furtivi sorrisi che sembravano tradire una simpatia affatto personale. Alle mie spalle, la frase di un avventore mi fece voltare di scatto la testa. Invece di un'ordinazione del tipo «Ala di pollo, benissimo, un po' di champagne ma non troppo secco», avevo udito «Io preferirei della glicerina, sì, calda, benissimo». Avevo voluto vedere chi fosse l'asceta che si infliggeva un simile menù. Subito dopo girai di nuovo la testa verso Saint-Lieu per non essere riconosciuto dal bizzarro buongustaio. Era, molto semplicemente, un medico di mia conoscenza al quale un cliente, approfittando della nebbia per scroccargli un consulto al ristorante, aveva chiesto qualcosa. I medici, come gli agenti di cambio, dicono «io».